24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Raffaella Calandra a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano in questa edizione la tensione diplomatica tra Francia e Turchia sul genocidio degli armeni, il riassetto Edison e i nuovi crolli a Pompei. Cominciamo dunque con l'alta tensione tra Parigi e Ankara. Il primo ministro turco richiama il suo ambasciatore in Francia e minaccia ritorsioni dopo l'approvazione della legge sul riconoscimento del genocidio armeno. Sentiamo. Che ne dicano i turchi, la storia dimostra che il genocidio c'è stato. Il ministro Leonetti sottoscrive il voto dell'Assemblea nazionale e invita la Turchia alla ragione. Un secolo dopo gli eventi, la storia divide ancora Parigi ed Ankara. L'approvazione annunciata di una legge che punisce il negazionismo dei genocidi e dunque anche quello perpetrato dal governo turco ottomano nel triennio 1915-17 nei confronti degli armeni ha provocato, come previsto, l'immediato richiamo dell'ambasciatore turco a Parigi. Ankara ha tentato tutte per fermare un'iniziativa che la comunità armena in Francia sostiene da anni e a nulla sono valse le rappresaglie economiche minacciate dal governo Erdogan. Sono solo minacce al vento, ha ribadito il ministro francese agli affari europei Jean Leonetti, che ha nuovamente invocato un dialogo molto più sereno su questo tema. Opposta la posizione di Erevan, il ministro degli esteri armeno Nalbandian ha trasmesso alla Francia i ringraziamenti del suo paese, aggiungendo che Parigi ha ancora una volta provato il suo impegno in favore dei valori universali dell'uomo. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. In Italia il Senato vota la manovra che diventa dunque legge. È partita la fase 2, annuncia il premier Mario Monti. Con un avanzo primario che non ha pari in nessun paese europeo, a regime circa il 5% del PIL strutturale, l'Italia porterà in Europa il suo contributo alla stabilità, ma anche elementi di riflessione e di azione sempre più forti sulla politica economica della quale i nostri popoli hanno bisogno. Non c'è crescita senza disciplina finanziaria. Non c'è stabilità se i bilanci non sono in ordine. E siamo alla giornata in borsa. La maxi asta della BCE, che ha garantito liquidità al settore bancario e i dati positivi sul mercato del lavoro statunitense, hanno sostenuto le borse europee. Tra le migliori Piazza Affari, dove il FTSE share ha guadagnato l'1,35% e il FTSE MIB l'1,4%. Maglia rosa è stata la Banca Popolare di Milano, salita del 5,1% nel giorno in cui l'Assemblea degli obbligazionisti ha approvato la ristrutturazione del prestito convertendo. Il via libera consentirà all'istituto di godere di benefici patrimoniali fin dalla fine di quest'anno. Ha perso terreno in controtendenza invece Fondiaria SAI, meno 3,5%, alla vigilia del CDA che dovrà esaminare le opzioni a disposizione sul fronte del patrimonio. Il mercato ritiene sempre più probabile il lancio di un nuovo aumento di capitale. Paolo Paronetto da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore. E proprio le difficoltà finanziarie sarebbero la causa dell'incremento degli arrivi di più immigrati in Germania. Nella prima metà del 2011, secondo i dati statistici, da Spagna e Grecia sarebbero arrivati il 19% in più di stranieri. In totale si sarebbero trasferite in Germania 435.000 persone in 6 mesi. E della crisi economica dell'Europa ha parlato anche il Papa, incontrando cardinali e prelati. Alla fine dell'anno l'Europa si trova in una crisi economica e finanziaria che in ultima analisi si fonda sulla crisi etica che minaccia il vecchio continente. Manca spesso la forza motivante capace di indurre il singolo e i grandi gruppi sociali a rinunce e sacrifici. Ora in Spagna cambi in vista alla guida della capitale. Dopo la nomina a ministro della giustizia si dimette da sindaco di Madrid Alberto Gallardón. Sarà sostituito il 27 dicembre da Ana Botella, moglie dell'ex premier di centrodestra José María Aznar. E siamo ora alle notizie finanziarie, a cominciare dal riassetto Edison. Tutta Edison ai francesi e tutta Edipower agli italiani. È sostanzialmente questa la proposta italiana avallata anche dal ministro dello sviluppo che ieri ha incontrato il presidente di EDF. British Airways mette le mani su British Midland, la compagnia che 2 anni fa era entrata nell'orbita Lufthansa. L'ultimo capitolo del consolidamento in corso da anni nell'industria del trasporto aereo ha come protagonista la British Midland, conosciuta anche come BMA. 3.500 addetti, una flotta di 47 aerei, una media compagnia acquisita nel 2009 dalla Lufthansa, che non è mai riuscita a generare profitti. Ora la holding che raggruppa British Airways e Iberia acquisirà il vettore per 207 milioni di euro. Per British è un bel colpo, perché in questo modo la compagnia britannica consoliderebbe la propria posizione nel mercato interno, aggiudicandosi in un sol colpo più della metà degli slot di atterraggio all'aeroporto londinese di Heathrow. Proprio per questo motivo la concorrente Virgin Atlantic, che a sua volta aveva tentato di aggiudicarsi BMI, ha annunciato ricorso all'antitrust. Il rischio che la stessa British ammette è che le autorità impongano la cessione di una parte degli slot di atterraggio a Heathrow. La ristrutturazione comporterà inevitabili riduzioni del personale e una probabile razionalizzazione delle rotte di BMI, che in Italia raggiunge gli aeroporti di Venezia, Torino, Roma, Napoli, Milano e Bologna. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tramonto per 2 big dell'energia solare tedesca, portate sulla via del fallimento da crisi e concorrenza internazionale. Delle rinnovabili, la Germania si era sentita negli ultimi anni la mecca in ricerca e produzione. E se rinunciò al nucleare la primavera scorsa non fu solo per l'effetto Fukushima e le sue eventuali conseguenze politico-elettorali. Fu anche per una scommessa su un'industria, quella ambientale, che in pochi anni era diventata leader nel mondo, mentre Francia e Germania facevano la parte del leone nel nucleare. Molto ancora funziona, ma non tutto. Dopo la berlinese Solon, produttrice di moduli fotovoltaici, questa settimana anche la Solar Millennium, specialista delle centrali solari termodinamiche, ha dichiarato insolvenza a causa di un contratto saltato negli Stati Uniti e di problemi di finanziamento di un progetto in Spagna. Ma se la crisi internazionale è la prima causa delle difficoltà delle imprese tedesche del settore, la seconda è tutta interna. I ricchi incentivi del governo alla produzione di energia solare, seppur decresciuti negli anni, fanno gola a tanti produttori, in particolare cinesi, che grazie ai massicci investimenti del governo di Pechino sono rapidamente arrivati all'eccellenza tecnologica, a basso prezzo si intende. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. A Pompei, nel sito archeologico campano, nuovi sigilli chiudono la Domus di Loreio Tibutino dopo il cedimento di un pilastro. Si tratta solo dell'ultimo crollo avvenuto quest'anno nell'antica urbe romana, più volte visitata anche da emissari dell'UNESCO e dell'Unione Europea. Ma il problema sono i fondi? Adriana Fracchia ne ha parlato con Salvatore Settis, archeologo e accademico dei Lincei. La mancanza di fondi è una mancanza che è dovuta alla cattiva amministrazione. I soldi ci sono, siamo noi che li spendiamo male, siamo noi che li spendiamo facendo delle autostrade inutili e dei passanti TAV inutili e dannosi come quello di Firenze, anziché destinarli alla conservazione del nostro patrimonio. Intanto ci vantiamo di abbiamo il patrimonio più grande del mondo. Sono i benvenuti i fondi da qualsiasi parte arrivino, che arrivino dai privati, che arrivino dall'Unione Europea. Mi piaceva di più l'Italia di 15 anni fa, quando si lavorava per ridurre la pendenza della Torre di Pisa che minacciava il crollo. Quando dal Giappone arrivò l'offerta di pagare i fondi, il governo italiano rispose no, la Torre di Pisa è no, paga lo Stato. Hanno 17 anni, frequentano il penultimo anno del liceo, vivono uno a Varallo Sesia nel Vercellese e l'altro a Milano. Li accomuna un'esperienza di studio all'estero, realizzata grazie ad Intercultura, l'associazione che promuove la mobilità degli studenti. Per i ragazzi è stato poi organizzato anche un campo a Bruxelles, a contatto con le istituzioni comunitarie. E allora ci siamo fatti raccontare le loro esperienze e cominciamo oggi con Mattia Pedretti di Varallo Sesia. Io sono stato a Mons, che è nel sud, a 15 km dalla frontiera francese e a 1 ora da Bruxelles. L'esperienza scolastica com'è stata? 2 opinioni mi sono fatta. Una, dal punto di vista della metodologia, penso che in Belgio siano avanti rispetto a noi, perché ad esempio su 2 ore di lezione alla mia scuola in Italia sarebbero 2 ore di spiegazioni frontali, nel senso professore che spiega, alunni che prendono appunti. Invece in Belgio già la spiegazione è fatta in modo un po' più interattivo, ma dal punto di vista di contenuto in Italia siamo avanti anni luce, le nostre lezioni hanno dei contenuti molto più completi. È cambiata la tua idea di essere europeo? Abbastanza. Adesso apprezzo delle cose che prima non notavo, ma non sono ancora completamente sicuro di sapere cosa voglia dire al 100% essere europeo. Forse mi serve ancora un po' di tempo per capirlo. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Un saluto da Raffaella Calandra. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.